Allora, io vi do il benvenuto anche da parte dell'assessore Cristian Tomasini, che è il presidente della biblioteca. Vi saluto. Certo che l'orario delle 11 della mattina è un po' inusuale, allora non è sempre facile visto che il nostro rituale è delle ore 18. Però insomma dovremmo anche un po' lentamente abituare il pubblico a questa consuetudine della mattina che può permettere anche di realizzare alcune iniziative che altrimenti sarebbero già più difficili da concretizzare. Ringrazio la dottoressa Doronzo di essere qui con noi, il professor Eugen Galasso che è un nostro amico e ci accompagna spesso nelle nostre iniziative come moderatore, come ispiratore e come promotore. Ora, l'argomento di oggi, che è la libertà di produzione poetica e saggistica di Giorgio Antonucci, verrà condotto in maniera forse un po' diversa rispetto a quello che ci eravamo così pensati, di cui avevamo parlato e anche preparati, perché non ci sarà questo collegamento annunciato, no? In ogni caso, Per ecco. motivi di salute. Per motivi di salute, ecco, ci dispiace, purtroppo capita, speriamo che si riprenda e invece verrà appunto, ci affidiamo ai due relatori che sicuramente ci accompagneranno in questo viaggio. E presento la dottoressa Doronzo che è la presidente del Centro di Relazioni Umane a Bologna. Tra l'altro, ecco, questa giornata cade proprio in un momento in cui anche qui in Alto Adige è in corso una mostra sui malati psichiatrici, sulla psichiatria nel Tirolo, nel Trentino, nell'Alto Adige, negli inizi del Novecento fino alla Seconda Guerra Mondiale. Insomma, un tema abbastanza forte, anche perché i risvolti non sono stati indifferenti, ecco, soprattutto come le vittime si contano tantissime anche purtroppo fra i malati psichiatrici. E questa mostra è alla LUB, alla Libera Università. E ecco, quindi diciamo che tutto concorre, ecco, sempre a tenere viva l'attenzione su questi temi particolarmente delicati. Vi ringrazio, vi cedo la parola, la ringrazio per il volume che verrà catalogato e messo a disposizione del pubblico. Un microfono, sì, lo mettiamo subito. Facciamo subito il collegamento. Allora, vi ringrazio intanto. Ups. E vi cedo subito la parola, appena. Sì. Sì, infatti. Ma io ringrazio in primis naturalmente la dottoressa Doronzo, appunto presidente del Centro di Relazioni Umane, che diciamo, senza la quale l'iniziativa odierna sarebbe assolutamente impossibile, sarebbe stata irrealizzabile. E la ringrazio di essere venuta affrontando anche varie traversie, viaggi non sono sempre così molto agevoli. E ringrazio voi, ringrazio però oltre naturalmente la dottoressa Trevisan che ci ha gentilmente presentato e ha detto cose già significative. Tra l'altro, ecco, tutto si tiene, no? La mostra qui, no? E naturalmente però vedo l'amico e diciamo presidente sia dell'ASA sia responsabile della LACMA, Franco Latino, è impossibile non ringraziare anche lui, che peraltro ha attivamente collaborato all'iniziativa odierna. Così, avete già sentito che purtroppo Giorgio Antonucci per motivi di salute non sarà in collegamento con noi, non potrà esserci in videoconferenza e vi auguriamo, diciamo, di superare un momento che per un nome, insomma, la salute è sempre un bene primario. Venendo più in specifico, adesso, credo che non ci sia da dire moltissimo, nel senso che sapete di che cosa si tratta. Diciamo, chi ha attivamente si è attivamente battuto contro la psichiatria e gli abusi psichiatrici è Giorgio Antonucci, più ancora diciamo del nome che tutti noi conosciamo e che tutti noi rispettiamo, insomma, per quello che storicamente ha rappresentato in Italia, cioè Basaglia. Antonucci è stato collaboratore di Basaglia da giovanissimo, ha proseguito poi in diverse realtà, soprattutto con un conto psichiatra, va bene, quale Ilves Cotti, un teorico ma anche soprattutto un operatore bolognese, e questa attività si è svolta a Cividale del Friuli, si è svolta a Reggio Emilia, si è svolta a Imola. E però appunto Giorgio aveva già collaborato con Basaglia a Gorizia. Questo per dare un attimo le coordinate. Diciamo che l'opera di Giorgio è stata molto più incisiva, molto più diretta di quella di Basaglia, che era, spiace dirlo perché se ci fosse non sarebbe del tutto d'accordo, se fosse ancora vivo, voglio dire, ma Basaglia era soprattutto un teorico, non, diciamo, il rapporto che aveva con le persone era così abbastanza distaccato o abbastanza così non sempre di presenza diretta, cosa che invece Giorgio, con diciamo grossi problemi anche dal punto di vista del dover, diciamo, del doversi districare tra diverse realtà, ha invece sempre assicurato, no? Quella che è una concezione che possiamo dire empatica, no? Cioè diciamo lo stare con la persona, lo stare coi problemi della persona e il sapersi, lo dico in forma molto, molto semplice, mettere nei panni della persona, no? Dal greco empatein, no? E quindi non tanto soffrire il sun, soffrire con sun, ma il diciamo il sapersi mettere appunto nei panni dell'altro, saperlo ascoltare con attenzione, in un modo diciamo così di sostanziale disinteresse, ma di partecipazione attiva. Il che non vuol dire chiaramente appunto il sympathein. Se per esempio una persona piange o soffre in modo che può, diciamo, estrinsecarsi nel pianto in altra maniera, chiaro che se piangiamo con la persona non la aiutiamo, questo sembra assolutamente chiaro. E diciamo l'aver aperto le strutture in cui Giorgio ha operato, io penso in particolare, ma non solo, ai reparti femminili, che erano diciamo i tabù verso la donna, verso la persona di genere femminile, sono atavici, no? E quindi diciamo l'averli in qualche modo scoperchiati è un merito assolutamente eterno di Giorgio Antonucci. Tra l'altro, qui insomma, è inutile che vi tedi, ma credo che personaggi come Lenk, come Cooper siano noti a tutti, e forse un po' po' meno, diciamo, l'attività di un Gattarino, se voi prendete le opere di Gilles Deleuze, del pensatore, grandissimo pensatore Deleuze, ha collaborato per la parte psicoanalitica con appunto Félix Guattari, che però, diciamo, adesso senza voler entrare troppo in medias res, non ha sempre agito nel modo che teoricamente proponeva. Voglio dire, con Giorgio si è realizzato il superamento totale di elettroshock, dell'uso e abuso di psicofarmaci, di letti di contenzione, di tutto questo, cioè l'apertura vera e propria del manicomio e poi diciamo di quello che ne era, diciamo, un precipitato, quello che rimaneva di esso, cioè i reparti, i cosiddetti reparti psichiatrici. Quando si dice reparto psichiatrico è un qualcosa di più tenue, di più presentabile rispetto al manicomio, no? Che come parola spaventa sempre di più. Ora, non vorrei portare via troppo tempo, perché c'è anche, vorremmo dare spazio al dibattito, ma vorrei dare spazio soprattutto all'intervento della collega, dell'amica e diciamo promotrice dell'iniziativa, e ecco, così molto brevemente, le critiche fondamentali, molto dirà naturalmente la dottoressa D'Oronzo, quindi non voglio rubare tempo, ma per esempio, ecco, il concetto di libertà della persona, quindi non del cosiddetto malato psichico, ma appunto della persona, e qui c'è proprio da dire che appunto il concetto di malato psichiatrico viene superato da Antonucci, che giustamente dice: no, attenzione, noi parliamo di malattie della psiche ed è un qualcosa di vago, qualcosa di indeterminato. E per di più, diciamo, nella psichiatria pretendiamo che le malattie psichiche o psichiatriche derivino da danni o da malattie di tipo cerebrale. Chiaro che è una concezione meccanicistica assurda e indimostrabile. Per di più, diciamo, il concetto di mente non è il concetto di cervello. Il cervello è un organo e la mente è qualcosa d'altro. Più in generale, diciamo, il vero problema è che persone che hanno difficoltà diciamo relazionali, o che hanno un modo di pensare o un comportamento che non piace o che non è corrispondente a certi canoni, queste persone vengono appunto etichettate come malati psichici, vengono sottoposti a trattamenti. Tra l'altro, ecco, una delle lotte fondamentali, poi lo dirà meglio la dottoressa D'Oronzo, è quella contro il TSO, cioè il trattamento sanitario obbligatorio, che può purtroppo svolgersi, poi sentirete anche qualche esempio recente, diciamo, di persone che magari per incomprensione linguistica o per incomprensione di altro tipo sono state sottoposte a questo, o in forma di controllo, e qui ci sono anche dei casi a livello quasi di livello giudiziario, no? Si è attuato, come si chiama adesso, per il presunto assassino, poi pare che non lo sia, di quella ragazzina uccisa circa un anno fa, forse un po' di più di un anno fa, no? Sara. Ecco, lì c'è stato un episodio di questo tipo, come credo manovra cautelare, qualcosa di simile, no? In senso giudiziario, altrimenti appunto qualcuno che disturba o dal punto di vista del comportamento oppure ecco, dal punto di vista delle idee, magari semplicemente perché non ha un tipo di argomentazione di tipo logico deduttivo, per cui da A deduco B, da B deduco C e così avanti, no? Quando qualcuno argomenta in modo diverso, ecco, allora naturalmente o si esprime in modo diverso, può diciamo provocare dei disturbi alla quiete pubblica e quindi venire represso. Così in Antonucci c'è la decisa condanna di tutto questo e addirittura un esempio che lui fa, il fatto che persino diciamo un illuminato, una persona che quando era primario, diciamo, chiamò e coinvolse molto spesso Antonucci nella conduzione, diciamo, dell'ex manicomio ormai, quale era appunto il già citato Ilva e Scotti, non si spingeva fino a diciamo lasciare libertà alle persone di telefonare o di corrispondere, cioè di scrivere la propria corrispondenza, di riceverla. Una volta non c'erano notoriamente SMS, email, eccetera, no? Noi sappiamo più o meno tutti che fino agli anni 90 non c'era una diffusione, diciamo, del PC, eccetera, non era facile, meno ancora per quanto riguarda i telefoni cosiddetti cellulari, brutta espressione, ma comunque fa perdere. E qui diciamo questa libertà che invece Antonucci non concedeva, perché l'idea del concedere una libertà vuol dire che un potere diciamo si diciamo, aliena la propria autorità a favore di sudditi. Questo non è chiaramente la concezione di Giorgio Antonucci, è l'equiparazione invece della persona rispetto a un'altra persona. Da qui anche la scelta della poesia. La scelta della poesia è, e qui ecco, invito, perché c'è anche nel sito una bellissima intervista. Il nome del sito. Sì, giustamente, ecco, www.centrorelazioniumane.it, giusto? No, www.antipsichiatria-bologna.net. L'altra, allora, l'altro. Sì. Bene. C'è una raccolta di poesie. No, mi riferivo però al documentario. Mi spiego, sì. È tutto lì, è tutto in antipsichiatria bologna.net. E alla fine della conferenza possiamo, sì, far vedere questo sito, no? Sì. Collegamento. Mm-hmm. O da quel computer lì, oppure se riusciamo a fare il collegamento anche con la... Sì, grazie. Io ci sono entrato anche da Sì, il sito è www.antipsichiatria-inmezzo-bologna.net. Trattino alto, trattino in mezzo, bologna.net. Ed è il sito del centro di relazione umana. Andando su Google, cercando centro di relazione umana, rimanda al sito, però l'indirizzo del sito è www.antipsichiatria-bologna.net. E ci sono diversi documentari, tu a quale ti riferivi? Svelando e rivelando, sì. Quello recente che appunto è molto bello, dove, diciamo, per dirlo in breve, Giorgio dice la psichiatria è un approccio tutto sommato astratto alla persona, perché appunto non riusciamo a calarci se non attraverso delle tassonomie, delle classificazioni astratte e spesso appunto a detrimento della persona, mentre la poesia, pur se non consente ovviamente di entrare nell'altra persona, però consente, diciamo, di ricreare delle condizioni e delle situazioni che per esempio in alcune poesie, questo è assolutamente chiaro, mi riferisco sia al volume diciamo più recente, che è il Diario dal manicomio, questo che abbiamo portato, sia alla Nave del Paradiso, che è un volume di poco precedente, no? Sono volumi che trovate tra l'altro anche in biblioteca, questo è da dire adesso, se ci siano qui hic et nunc, ora e qui, non si può dire, però sicuramente verranno procurati. Ecco, per venire alle poesie, temo che i tempi siano già avanzati, anche per non rubare ulteriore tempo, ma qualche esempio credo meriti di essere fatto. Ora ti racconto, una volta vivevo di pensieri e ora non vivo. Mi parlano con sufficienza come si fa con le bestie. Qui credo non ci sia da aggiungere molto, nel senso che la persona, di qualunque persona si tratti, può essere stato l'ospite, tra moltissime virgolette, la vittima quindi di una struttura psichiatrica, o può essere, diciamo, invece una persona che ha subito delle sofferenze, delle angherie di altro tipo. Pensiamo al carcere, magari ingiustamente, no? Ci sono persone che senza essere dei rei, senza essere colpevoli, purtroppo fanno i loro anni di detenzione o altra situazione, perché al di là della, diciamo, della struttura psichiatrica o della struttura carceraria, ci sono altre realtà che non so, ecco, tipo vedo, il matrimonio, ma forse anche, ma vedo lì il mobbing o altro, stalking eccetera, il matrimonio forse anche, insomma, ma questo, sono d'accordo, ma non così. Case senza vetri e pianure senza confini, sono tornato per caso, ma nessuno attendeva il mio ritorno. Anche qui le case senza vetri e le pianure senza confini, qui è una situazione così limbica, per usare un po' un'espressione che ci riporta al mito, è un mito, e sono tornato per caso, anche qui, insomma, tornato senza che ce ne fosse un vero motivo, ce ne fosse un bisogno reale, ma nessuno attendeva il mio ritorno, no? Spesso, ecco, tornare così è la situazione paradossalmente anche di Ulisse, se ricordate, ma in Ulisse quantomeno, insomma, Penelope, Telemaco, il cane, lo aspettano, insomma, no? Per altri va molto peggio. Ecco, io avrei chiuso perché ecco, eventuali altre letture, se avrà tempo, le lascerei al carissimo amico e poeta Dario Molon, se avrà tempo, se potrà leggere. Io chiuderei solo con una cosa. Mi è capitato di, come si può dire, trovare e leggere questo Henri Rodin, Le rire et le rueur, il riso e coloro che ridono. E un autore interessante che ha avuto rapporto con i surrealisti, tra l'altro era uno scienziato, ma in mano non ci vorrebbe, perché le due culture, no, di Snow, diciamo, insegnano, non ha senso scindere tra cultura scientifica e cultura umanistica, come Giorgio Antonucci dimostra, come anche Rodin dimostra. Però in uno scrittore di grande intelligenza, di tradizione laico, libertaria, eccetera, uno non si aspetterebbe mai, e purtroppo invece lo trova, la trova, una descrizione abbastanza volgare, che vi risparmio, sulla, diciamo, sui matti, le fu, dice, quindi folli, matti, più in francese non c'è la distinzione che c'è in italiano, e quindi diciamo una banalizzazione di questi che si offrono quasi fossero teiere o pezzi di formaggio, per dire della, così, di una condizione che hanno acquisito, o quasi una sorta di offrirsi, un'oblazione involontaria, no? Qualcosa di orribile, no? Ecco, tutto al contrario di quanto in Giorgio Antonucci e diciamo nel meglio di chi, qui vorrei però appunto che Maria Rosaria mi soccorresse, di chi si batte attivamente contro quanto è ancora in atto la psichiatria, no? La psichiatria dura, repressiva. E qui non posso concludere senza ricordare che purtroppo nel Land Südtirol, nella regione, perché la regione è anche statutariamente ormai Alto Adige Südtirol, ci sono strutture anche pubbliche nell'est della realtà, quindi segnatamente nella struttura pubblica, nel reparto psichiatrico di Brunico, dove l'elettroshock è quello che si dice in tedesco, Krank und Gebe, no? È moneta corrente. Io così non posso non chiudere su questa nota polemica. Io vorrei fare un meno del microfono. Sì. Allora, così. Ecco, grazie. Io mi scuso dei rumori. Perché tanto ci sentiamo, no? Adesso Fabio Ferralese è riuscito a collegare il sito, così bene. Se qualcuno vuole. Bene, questa è una cartolina disegnata da Massimo Golfieri, che è un fotografo di Imola, molto famoso, con il National Geographic, e l'aveva fatta in occasione di uno dei processi che ha dovuto sostenere il dottor Giorgio Antonucci appunto per quello che diceva Hogan Galasso, in quanto erano altri tempi, eravamo negli anni 70, c'erano i movimenti in tutto il mondo dei diritti civili, della responsabilità civile del cittadino di fatto e non per decreto, per cui le persone si sentivano responsabili della cosa pubblica. Parlo al passato, purtroppo, con una certa nostalgia, anche se non c'ero, e per cui questo movimento politico aveva interessato anche la messa in critica dell'esistente psichiatrico, non solo nelle aule dell'università, non solo nelle fabbriche, nelle campagne, ma anche lì dove erano messi da parte, rinchiusi migliaia di cittadini per i motivi sociali, che potevano essere l'immigrazione, la povertà, la mancanza di lavoro, donne rifiutate dagli uomini, uomini che non rispettavano, comunque non erano d'accordo con la morale del tempo di dover andare a lavorare, magari preferivano giocare a pallone, per cui tutte queste persone un po' fastidiose, un po' originali, un po' bizzarre venivano messe dentro questi ospedali psichiatrici, questi manicomi, perché rallentavano il tempo sociale, il tempo della società. E questo succede più o meno dal 1600, cioè da quando il nostro pianeta si è evoluto. E con la società industriale si è passati da un tempo contadino, da un tempo e una relazione tra le persone determinate dinamiche a un tempo industriale, per cui le città sono state invase dalla gente della campagna, non tutti avevano la fortuna o l'opportunità di avere un posto di lavoro, di essere accomodati in delle abitazioni, per cui di fronte a questa massa di persone il Re Sole aveva pensato di costruire un ospedale generale per raccogliere questi disgraziati, un po' cose che succedono tutt'oggi con altri nomi e con altre ideologie di facciata, perché poi i fatti dimostrano questo. Questa è la nascita della psichiatria. Storicamente la possiamo far risalire a Pinel, che era un medico della rivoluzione francese, che quando sono entrati nella Bastiglia si sono accorti che insieme ai ladri di polli c'erano anche questi uomini che non volevano lavorare, queste donne che andavano con gli uomini, questi bambini che erano nati senza essere voluti, insomma tutti quelli che erano stati rifiutati, allontanati dalla società, erano stati messi insieme agli assassini e ai colpevoli. Per cui Pinel dice: no, qui c'è bisogno della razio, siamo nell'illuminismo, dobbiamo fare le cose per bene, e allora dobbiamo dividere queste due categorie. C'è chi va giudicato e quindi con la sua pena, e c'è chi invece deve essere trattato in un modo più umano, perché ha delle difficoltà rispetto a chi ce l'ha fatta, a chi ha avuto la fortuna, a chi ha avuto la possibilità di vivere nella nostra città. La psichiatria nasce in questo modo. Non c'è nessuna ragione medica. come accennava precedentemente Hogan. C'è un bisogno di mantenere dei costumi sociali per cui gli uomini vanno a lavorare e le donne sposano un uomo alla volta, e per far questo è stato necessario, si è trovata una soluzione, visto che ormai i preti erano passati di moda, si è trovata una soluzione scientifica al problema. Questa è una grande truffa che va avanti in un modo sempre più feroce, ed è una truffa innanzitutto culturale. È stata, lo è tuttora, un grande alibi per alcune famiglie indigeste, famiglie povere, per cui c'erano troppe bocche da sfamare, per cui questi ospizi, questi istituti davano un alibi anche sociale, non è un abbandono, non li stiamo abbandonando, li mettiamo nelle mani degli specialisti, che non si sapeva bene cosa dovessero fare, qual era il loro compito, se non quello di custodia. Di custodia di persone che avevano un pensiero differente oppure che non avevano le opportunità degli altri. Questo è tuttora la psichiatria. Basaglia ha lottato molto su questo punto, che è il più culturale, il più intellettuale, quello, diciamo così, il meno che crea meno scoop giornalistico. È molto più fantastico vedere una ruspa che butta giù un muro di un manicomio a livello giornalistico. Molto meno difficile, molto più difficile spiegare alle persone che mettere da parte qualcuno non si sta risolvendo un bel niente. Il conflitto è sempre presente. Nascondere la persona scomoda non significa aver risolto il problema. Sedare un bambino che dà noia in classe non significa fare l'insegnante, non significa dare una preparazione a quella persona per poter leggere e far di conto. Certo, è molto più complicato per gli insegnanti avere un programma individuale, cosa tra l'altro che sarebbe previsto. Tutte le nostre leggi, tutti i nostri decreti sulla scuola parlano di queste buone intenzioni. Però poi la soluzione sono sempre le pillole, sono sempre i sedativi, gli psicofarmaci, dagli anziani nelle case di ricovero, che non solo sono allontanate dalla loro casa in un modo coatto spesso, cioè nel senso che nessuno gliel'ha chiesto, gli altri hanno deciso per loro, e vengono portati in questi istituti, uno per tutti, Giovanni XXIII, lo conosciamo, è sparso per tutto il territorio nazionale, dove il metodo è quello di legare le persone alla sedia, alla sedia elettrica, alle sedie con le rotelle, ma di bloccare la sedia e di legare la persona, è una pratica diffusa e di tutti i giorni, anche di adesso. Allora, ritornando a Bassaglia, la sua grande opera, appunto il suo grande impegno, è stato un impegno culturale. Lui aveva detto, in un modo anche discutibile dal nostro punto di vista, che il malato di mente deve essere umanizzato. Perché prima cos'era? Un sasso? Una pietra? Cioè, talmente la nostra cultura, il nostro modo di pensare, Hogan ha riportato anche il testo di questo signore libertario, quindi scienziato, sì. E quindi ci si aspetta qualcosa, un pensiero un po' più profondo. Si aspetta che una persona che dedica la sua vita allo studio magari riesca anche a intravedere qual è il nocciolo del problema. E invece no. E invece siamo in quelle categorie in cui la follia fa paura. Cioè, cos'è la follia? O fa ridere per scapparne, no? Purtroppo. Cos'è la follia? La follia è un pensiero differente da quello che è il pensiero che comunemente siamo portati a manifestare. Cioè, tutti quanti noi abbiamo dei pensieri originali, e questo perché è nella nostra biologia, nella nostra individualità. Ma guai a dirli questi pensieri. Chi invece ha meno scrupoli di noi e li può manifestare, o è costretto dalle contingenze a doverlo dimostrare, perché non c'è nessun altro linguaggio che viene ascoltato e che viene compreso. Allora queste persone danno fastidio, danno noia. Non tengono conto dei tempi della fabbrica, alle 3 di notte si mette a urlare, ma noi alle 6 dobbiamo andare a timbrare il tesserino. Non possiamo ascoltare queste voci, non abbiamo il tempo, non abbiamo la competenza, ci vuole lo specialista. Lo specialista che con il neuroplegico, cioè con una chimica che fa la paralisi al cervello, ci toglie il problema. Ma i problemi si risolvono, non si curano, non si tolgono. Io mi sono laureata a psicologia a Padova. Per fare la mia tesi di laurea sono andata in giro un po' per il Triveneto e per l'Emilia a cercare, volevo fare questa ricerca di tesi di laurea sulle contraddizioni della psichiatria. Parliamo del 92, la legge del 78, la riforma psichiatrica italiana che è la migliore del mondo, figuriamoci dalle altre parti, per cui ho iniziato questo mio viaggio di ricerca ed ero abbastanza demoralizzata perché insomma sono stata da persone che probabilmente voi avete almeno conoscete almeno di nome, parlo di Andreoli, Vittorino, di Galante. Non il governatore, ma comunque uno psichiatra di Venezia molto famoso, Gervis, Mistura, Galimberti, quello che scrive sui giornali. Però loro mi hanno detto che queste contraddizioni, appunto, umanizzare l'uomo, un camice bianco che umanizza un altro uomo. Queste contraddizioni non potevano essere affrontate da una laureanda in psicologia. E anche Galimberti mi diceva, sì, va bene, tutto molto sono molto d'accordo, però stiamo attenti ai fenomeni. Beh, io di fenomeni nel suo studio ne ho visti veramente tanti. Ho visto persone che talmente manomesse e compromesse dagli psicofarmaci che non erano più in grado di portare un bicchiere alla bocca per bere. E non mi si dirà che per curare un pensiero ci hanno fallito anche i preti. Solo i medici possono avere un'aspettativa così grande. Bisogna martorizzare il corpo? E questa è la psichiatria con tutti i suoi strumenti. Abbiamo parlato della costrizione chimica, appunto farmacologica, ma poi ci sono anche tutta una serie di costrizioni psicologiche. Se ti comporti in questo modo con tuo marito vuol dire che sei una moglie degenera. Se litighi con tuo padre vuol dire che sei una figlia snaturata. Ma saranno mica concezioni scientifiche queste. Sono sì dei giudizi morali, ma non possono essere considerate scienza. Non posso intromettere contro la volontà di una persona nel suo sangue una qualsiasi sostanza perché non è d'accordo con la mia morale. In nome di una salute. Queste sono le conseguenze di una delega che la società fa a questi specialisti della famiglia, della scuola, dell'educazione, del matrimonio, della relazione con l'altro. Il centro di relazioni umane l'abbiamo chiamato in questo modo per ricordare l'opera appunto di Edelweiss Cotti, che mandato da Basaglia nel 69 a Cividale del Friuli per aprire il primo reparto psichiatrico nell'ospedale civile, appunto per questa idea che Basaglia aveva che bisognava umanizzare i malati di mente. Allora i malati dove sono? In ospedale generale. Quindi anche il malato di mente deve essere a fianco a ortopedia, a fianco a geriatria, a fianco a medicina, ci deve essere anche psichiatria. E Edelweiss Cotti, che è un pensatore un po' più ardito di Basaglia e anche più meno fortunato, forse le due cose vanno insieme, lui copre con un lenzuolo la dicitura di reparto psichiatrico e ci scrive centro di relazioni umane, perché la questione psichiatrica è la questione della relazione umana. Quando c'è un conflitto nella relazione, la persona più potente dà del matto all'altro. Lo vediamo tra Bossi e Fini, tra Berlusconi e Casini, quando vogliono sminuire la portata del loro nemico, avversario politico, gli danno del matto. È la parola di un matto. Questa è la nascita della follia. Quando vogliamo togliere qualcuno di mezzo, un nostro avversario, un nostro concorrente, una moglie di troppo. Vediamo del matto. L'ha fatto Mussolini con la sua donna, e comunque questo è, cioè, per dire che è un mezzo che viene usato in modo trasversale a tutti i livelli della società. Quindi il centro di relazioni umane nasce per ricordare questo lavoro di Edelweiss Scotti, mentre questa cartolina di Massimo Golfieri è stata fatta nell'occasione in cui Giorgio Antonucci ha dovuto tenere un processo. E le ragioni erano, le dico velocemente, erano di questo tipo: che le persone erano libere di entrare e di uscire dall'ospedale, dal manicomio, come allora si chiamava, siamo negli anni Ottanta. Un signore, un paziente, è per strada, il conducente della macchina sbanda, lo prende e lo ammazza, per cui l'assicurazione paga, perché il pedone era nella posizione giusta del codice della strada, e quell'altro ha avuto un malore, l'ha ammazzato. La procura di Bologna non è contenta, perché essendo un paziente psichiatrico, quella persona lì doveva essere accompagnata da un infermiere, così i morti sarebbero stati due posto due. Per cui c'è stata questa campagna civile per questo processo, per cui abbiamo le cartoline con la porta di una cella aperta per il diritto delle persone al movimento, che è un diritto riconosciuto dall'ONU, come il diritto delle persone ad avere relazioni con gli altri in qualsiasi situazione si trovino, e quindi anche nelle istituzioni totali, tutti i diritti che con la psichiatria vengono a cadere. È lo spazio e il tempo di un'autorità superiore a quella giuridica. Ora, il lavoro che noi facciamo al centro di relazioni umane è innanzitutto principalmente un lavoro culturale, cioè dove nella situazione in cui ci sono delle famiglie, dei gruppi di persone, degli amici che non sono d'accordo con questi metodi, con questa filosofia, con questa pratica manicomiale, e ha un conflitto da risolvere, ha un problema da risolvere, può rivolgersi al centro di relazioni umane per trovare delle soluzioni che siano non psichiatriche, cioè dove la psichiatria non è un termine da prendere in considerazione, per le ragioni che ho detto prima. Innanzitutto non è scientifica, seconda ragione è una truffa, perché non risolve nulla e serve per coprire la portata del conflitto. Ora io voglio leggervi una poesia, ne leggerei tantissime, però ne leggo solo una, visto anche il tempo che passa, e provo a commentarla. Non sono una lettrice, ma ho scelto in questo modo per poter unire le due attività, le due, tre, quattro attività di Giorgio che è Antonucci, che è questa mente, questo intelletto prestato alla questione psichiatrica. Se mi ascolti e mi credi, posso raccontarti in che modo sono finita qui dentro. Posso raccontarti cos'è accaduto quando avevo 16 anni. La mia storia è molto semplice. La mia storia è semplice e chiara. La ricordo assai bene e posso parlarne con serenità, nonostante tutto. Nonostante il ricovero a tradimento, nonostante gli interrogatori dei primi tempi, nonostante gli insulti, sei agitata, io mi ribellavo, sei incomprensibile, io cercavo di spiegarmi e di sapere. Sei pericolosa. Io mi difendevo. Nonostante la camerata e il cortile, dove il sole e la luna concedono poco per mancanza di spazio, nonostante i miei anni senza nulla, la mia storia è semplice e chiara e la ricordo assai bene e posso parlarne con serenità. Se mi ascolti e se hai il coraggio di credermi, e se hai il coraggio di credermi, perché vedi, non mi ha mai creduto nessuno. Perché non mi ha mai creduta nessuno. Ho perduto le gambe sotto il treno. Per loro fu un tentativo di suicidio. Io potrei dirti, forse è successo per disgrazia, forse volevo uccidermi. Ma che ti importa perché è successo? Per loro non fu disgrazia, per loro non fu disperazione, per loro fu pazzia. Loro spiegano tutto con la pazzia e sono venuta qui dentro e ci resto. E devo ringraziare l'infermiera se la mia seggiola a rotelle viene spinta dalla cella al cortile, dal cortile alla cella, perché così la mia vita, anche se squallida, non è monotona del tutto. Perché così la mia vita, anche se squallida, non è monotona del tutto. Se mi ascolti e se hai il coraggio di credermi, la mia storia, come vedi, è molto semplice. Queste poesie di questa raccolta, La nave del paradiso, sono delle poesie scaturite dalla relazione, dal dialogo, dal confronto che Giorgio Antonucci aveva con le internate dei suoi reparti. Non ha mai fatto delle diagnosi psichiatriche per le ragioni che si dicevano prima. Le diagnosi psichiatriche sono dei giudizi morali sulle persone. La mente non è un organo, non si può mettere sotto un microscopio elettronico, mentre possiamo dire che un fegato è abnorme, non possiamo dire che un pensiero è abnorme. Possiamo dire che per me sono più o meno d'accordo. Avere anche l'intelligenza di Voltaire, non sono d'accordo, ma mi batto perché tu lo possa pensare, perché tu lo possa dire. affermare, manifestare, non con la psichiatria. Quindi, di fronte a un'assenza di diagnosi, abbiamo una proliferazione di poesie. Se mi ascolti e mi credi, è molto coraggioso. Dopo aver passato 3 mesi, 3 anni, 30 anni in una condizione di un'etichettatura di malata di mente, ormai ci si aspetta che le persone stiano zitte, non ci provino neanche più a parlare, a chiedere, a credere che la loro parola possa essere un'azione. Se mi ascolti e mi credi, posso raccontarti in che modo sono finita qui dentro, perché è veramente incredibile nei modi in cui si può finire in psichiatria. In psichiatria si finisce perché c'è un conflitto. Ci sono anche delle cose simpatiche, cioè simpatiche nel senso curiose, che io ho visto nei manicomi. Un signore mi ha raccontato che per lungo tempo chiamava gli psichiatri per portar via l'altro suo fratello per problemi di eredità. E ogni volta lo psichiatra arrivava e faceva il suo dovere, squalificava l'altro fratello e se lo portava in manicomio. Una notte è successo qualcosa di incredibile, e invece di portar via quell'altro, ho portato via lui. E quello non c'è nessun fondamento. Ma lo vediamo anche nell'aula dei tribunali, quando c'è un fatto efferato ci sono tutti gli psichiatri, i criminologi che fanno le loro speculazioni, fanno le loro diagnosi per lo stesso fatto, per la stessa persona, il perito di parte dà un'etichetta, il perito del tribunale ne dà un'altra, per uno è pazzo, per l'altro è normale, per uno è responsabile, per l'altro è irresponsabile. È una questione sempre di potere. La mia storia è molto semplice e chiara. Poi verrà complicata dalla psichiatria. La ricordo assai bene, nonostante il ricovero a tradimento. Vieni, vieni con noi che ti curiamo. Vieni con noi che così troverai la soluzione al tuo matrimonio. Vieni con noi che troverai l'amore di tuo papà, di tua mamma, che tanto reclami e urli ai quattro venti. Vieni con noi che curiamo le tue relazioni. Questo apre una spirale di umiliazioni, la persona è sempre più degradata, più la sua cartella clinica aumenta, inversamente proporzionale la sua stima, cioè le persone di cui si fidano di lei, come si fa? E allora è simpatico Beppe Dell'Acqua che a Trieste sgrida i giornalisti di non usare termini come malato di mente, pazzo, folle nei loro giornali. Ma il giornalista scrive qual è la realtà. Chi ha la responsabilità di quell'etichetta è Beppe Dell'Acqua, non del giornalista che riporta le cose così come vengono presentate nella realtà. nonostante gli interrogatori dei primi tempi, perché questi sono i metodi della psichiatria, gli insulti, le diagnosi. Chi si ribella deve essere sedato. Chi chiede spiegazioni deve essere sedato. Chi si difende deve essere legato. Ogni tanto ci scappa il morto. C'è da chiedersi come mai sono così pochi, visto quello che è la pratica psichiatrica. Ma in effetti non sono pochi i morti di psichiatria, sono morti camuffati da infarto e da arresto respiratorio. Ma guarda un po', è proprio scritto nei bugiardini che gli psicofarmaci procurano questo. Se mi ascolti, torna sempre questo, se mi ascolti e se hai il coraggio di credermi. Ho perduto le gambe sotto il treno. Ho perduto le gambe sotto il treno. Ed è stata interrogata per questo. Ma che ti importa perché è successo? Questa frase la possiamo leggere in tanti modi differenti, sia come un diritto della persona a tenere per sé le sue cose, per non essere giudicata in modo arbitrario da sedicenti medici. Ma significa anche che per poter continuare a chiacchierare, io voglio sapere le tue intenzioni. Mi stai interrogando? Mi stai ascoltando? Mi stai... cerchi di interpretare quello che io dico? Cioè non mi ascolti più? Gli dai un significato differente alle cose che io dico? E forse il mio pensiero può essere interpretato a piacimento dagli altri? Sì, quando sarò morta. Ma adesso io chiedo che mi si venga creduta, che mi si venga ascoltata, non interpretata. Non sono una lettera morta, non ancora. Per loro fu pazzia, spiegano tutto con la pazzia, appunto per non spiegare nulla. Non si può spiegare un conflitto. Il conflitto deve essere risolto, continuo a dire. E se c'è un conflitto tra l'individuo e la società, non può essere il camice di uno psichiatra ad avere l'ambizione di risolvere questa cosa. Questa incoerenza, questa incompatibilità. È molto gentile questa poesia nei riguardi dell'infermiera, della figura dell'infermiera. Debbo ringraziare l'infermiera se la mia seggiola a rotelle viene spinta dalla cella al cortile e dal cortile alla cella. Però anche loro avevano le responsabilità e ce l'hanno tuttora. proprio qui in questa regione c'è un manicomio che si chiama Casa Basaglia, dove gli abusi e i soprusi di educatori e di infermiere ancora non sono venuti fuori. C'è ancora la paura da parte degli infermieri e degli educatori di dire veramente come loro trattano queste persone che non hanno voce, che non sono credute, che non sono ascoltate, che hanno una vita, come diceva qui, nonostante i miei anni, senza nulla. Una vita di tempi morti, una vita di istituzioni totali. E io faccio questo augurio, chiudendo il libro, che anche qui, in questa struttura che probabilmente voi conoscete, Casa Basaglia, andate a visitarla, abbiate il coraggio di fare la vostra parte di responsabilità civile, andate a denunciare gli abusi che avvengono in questi posti, andate a visitare questo posto, ci sono i vostri parenti, i vostri familiari, li avete messi nelle mani di questi specialisti per il loro bene, per la loro salute. Andate a vedere in che condizioni stanno, in che modo li fanno vivere. Perché il manicomio non è un muro da battere, è una cultura di cui rifiutarla, non farne più parte, metterla fuori dalla nostra realtà come abbiamo fatto con gli schiavi e con i nazi. Grazie. Di solito lasciamo un po' un margine anche per eventuali domande, se c'è qualcuno che... Io ringrazio la dottoressa D'Oronzo, Eugen Galasso, perché è stata una mattinata intensa e interessante, veramente mi ha colpito molto anche. Grazie a voi. Quello che lei ha detto e quello che ha letto anche. Andremo a vedere, anche visitare il suo sito e cercheremo di approfondire anche queste tematiche con quello che è la possibilità di questa biblioteca di stimolare. E diciamo che il dibattito della psichiatria è sicuramente molto forte, abbiamo visto anche con quello che è stato scoperto recentemente anche in Austria, Hall, sulle vittime del nazismo, no? Cosiddetti malati psichiatrici, dobbiamo vedere in che forma, cos'erano queste persone, comunque sono anche loro da annoverare fra le vittime dell'antifascismo. Sì. Diciamo i risvolti anche storici, non indifferenti questo termine. Sì. La ringrazio ancora, grazie. Grazie a voi. Ringraziando Maria, dottoressa D'Oronzo, io così penso che veramente questi libri, dato che siamo in una biblioteca e tutta la riflessione conseguente possa, diciamo, alcuni impulsi importanti ce li ha forniti Maria D'Oronzo e direi che è tutto un work in progress, no? È tutto da fare da parte vostra, insomma, ecco questo, e in qualche modo direi che così proprio nella problematicità della cosa accennava Maria D'Oronzo al surveiller et punir, no? Il sorvegliare e punire foucaultiano, no? Quando qualcosa è scomodo, non solo un comportamento, un atteggiamento, ma un modo di pensare anche, allora lo si demonizza o appunto si ricorre a mezzi repressivi che possono essere o alternativamente strutture psichiatriche o quello che le surroga, oppure il carcere, oppure, e questo è appunto quello che un po' veniva fuori da alcuni brutti testi, perché non è solo quello di cui si accennava, ce ne sono vari, e magari se ne ride, e questo è un'altra forma di escapismo, no? In genere si ride anche al di là di tutte le nobilissime teorie, Bergson, Freud, Pirandello, no? sul Herbert Spencer, insomma all'inizio del Novecento, positivismo, no? Ecco, sulla genesi del ridere e della comicità, però molto spesso la comicità si abbina appunto al ridere, si abbina a una forma di aggressività verso persone indifese, verso persone demonizzate. E allora, ecco, pensiamo a qualcosa di estremamente volgare, di cui forse in un modo o nell'altro o abbiamo riso noi stessi, o quantomeno hanno creduto o hanno voluto farci ridere. Pensiamo alle cosiddette barzellette sui matti, no? Che in realtà insomma non fanno ridere per nulla. Scusate, io vorrei alla dottoressa D'Oronzo sottoporre più che una domanda, una mia riflessione su quanto lei ha detto. Allora, questi ammalati, chiamiamoli così, questi i matti, spesso i familiari, cioè secondo l'idea i familiari li consegnano, diciamo così, agli psichiatri, ai medici, per togliersi un peso. Io direi che spesso e volentieri non è un peso, ma i familiari non sono preparati ad affrontare queste persone, ad affrontare il come curarle, se non hanno, diciamo, perché un conto è dire è un pensiero diverso, cioè sono due pensieri diversi, spesso e volentieri i pensieri della persona considerata strana o malata è un pensiero anche, diciamo, non so come dire, non normale, è un pensiero che può essere veramente strano, cioè che è difficile da affrontare. Cioè, nella realtà, diciamo, nella nostra società succede anche, si sentono le cronache che dicono questa persona di punto in bianco per strada ne ha uccisa un'altra o ne ha aggredita, era stato curato in precedenza per questi problemi mentali. La fermo qui, ecco. Subito. Quindi, cioè, non è, ecco, no, volevo solo concludere, non è facile, cioè, un conto, no, va bene, va un bene. Peso, non è facile, però. No, l'unica cosa facile è prendere la persona e metterla da parte. Mi faccia rispondere. L'unica questione, l'unica soluzione facile è quella della psichiatria. E allora, se noi vogliamo delle soluzioni facili, la psichiatria è perfetta. Prende la persona, con i pompieri, con i carabinieri, con la polizia, in tutti i modi, arrivano anche i marines. Prende la persona, la mette da parte. Ok? Allora, questa è una soluzione facile. Se noi vogliamo una soluzione facile per nostro fratello, la nostra sorella, il nostro papà, il nostro vicino di casa, per chi ci crea un problema, abbiamo già la psichiatria, con tutto quello che comporta, perché oggi in Italia non abbiamo più i manicomi, abbiamo la porta girevole, come si chiama, abbiamo cioè il TSO che dura 7 giorni più 7 fino a 6 mesi, quindi se siamo fortunati la soluzione facile funziona fino a 6 mesi, dopodiché ce lo rimandano in casa. A quella persona non gli è stato cambiato il pensiero, per poter cambiare il pensiero a una persona bisogna tagliarle la testa. È stata sedata nel momento in cui gli psicofarmaci, la chimica, cioè la sua fazione, nel momento in cui la chimica non è più sufficiente, noi ci ritroviamo lo stesso problema. E la soluzione è sempre quella facile. La prendiamo, la portiamo via, creando quella porta girevole che si diceva, ma quella porta girevole non è un effetto collaterale. È proprio il beneficio della psichiatria, che non perde mai i suoi clienti. Lo schizofrenico lo è a vita. Per quanto riguarda gli assassini, la Costituzione italiana prevede il carcere. Possiamo essere d'accordo o non d'accordo, possiamo parlare delle difficoltà e delle contraddizioni delle galere, che non è neanche un tema così antico, voglio dire, però non è una questione psichiatrica. Se io potessi, se la scienza mi dice c'è la pillola verde a pua blu che di tutti gli omicidi ne fa delle sante persone, ma non c'è questa chimica e la scienza non può dire delle balle così grosse, perché l'umano, come dice Dostoevskij, è troppo vasto. Quindi ci sono ordini di problemi differenti. L'omicida non è una persona che la pensa in un modo differente dagli altri. L'omicida è una persona che fa le cose che gli altri pensano. E quella è una questione non solo di pena o di reato, una questione etica. Io ho pensato di ammazzare mio marito, ma non l'ho fatto. La differenza tra me e chi ammazza il marito è che quella lì l'ha fatto, io non l'ho fatto. Non è che ha un pensiero forse differente. Se l'etica serve allora a questo punto. Ma l'etica è tutto. Ma non c'è una medicina per l'etica. O ce l'ha o non ce l'ha. È un processo culturale, non è un processo medico. È di questo che stiamo parlando. Quindi lei mi mette insieme gli omicidi ai malati di mente. Un'altra cosa che ha fatto molto, di cui siamo molto grati a Basaglia, è stato proprio questo, di dire che i malati di mente non sono più o meno pericolosi di quelli che stanno fuori dal manicomio, per cui li ha umanizzati. Umanizzare il malato di mente all'epoca, nella parola di Basaglia, significava proprio questo: non è un mostro, possiamo tenerlo nei reparti dell'ospedale generale, dell'ospedale civile generale. Ci sono stati degli studi di statistica, poi naturalmente ci sono sempre i corsi e i ricorsi storici, quindi ogni tanto qualcuno vuole dimostrare la pericolosità del matto, ma finora non ce l'hanno fatta. Finora non ce l'hanno fatta, nel senso che succedono tanti incidenti mortali, incidenti voluti, omicidi, da una parte dentro al manicomio tanto quanto nella società, nel senso che la statistica dimostra che non c'è un luogo sicuro dove non si viene ammazzati. È un pericolo che sia dentro all'istituto che fuori dall'istituto, nella società. Quindi non possiamo più ricorrere alla categoria della pericolosità della persona neanche a livello dal punto di vista giuridico, nel senso che per fare un trattamento sanitario obbligatorio e quindi venir meno a tutte le garanzie di libertà individuali che la Costituzione italiana ci permette, perché è un ricovero coatto, perché non c'è l'assenso a tutte le cose che vengono iniettate nel nostro corpo, perché è un trattamento sanitario che non prevede un contratto tra paziente e medico, e quindi è un sequestro di persona. Ma per fare questo sequestro di persona non ci si può appellare alla pericolosità, perché giuridicamente è venuta meno, proprio per le battaglie di Basaglia, grandissime battaglie civili di Basaglia, di Franco Basaglia. Come dice lei e come ho cercato di ripetere anch'io più volte, il conflitto esiste. È la psichiatria che vuole nascondere il conflitto chiamandolo malattia. Ma il conflitto esiste. Come risolvere questo conflitto? Allora, o nella modalità tradizionale della psichiatria, cioè trattamento sanitario obbligatorio, ripeto, 7-8 volte all'anno, che poi diventeranno 40 anni di manicomio, in un'altra forma, esci, entra, in cui è impossibile starci a fianco, mi metto dalla parte delle famiglie. Io che sono psicologa, come posso fare ad avere un confronto dialettico, un dialogo con un tossico di eroina? Non mi segue. Le sue connessioni sono bloccate. Ma il tossicologo le dirà, signora, che lo psicofarmaco è una droga benedetta, perché quella maledetta si trova in stazione nelle grandi città. Ma tra le due sostanze, il nostro cervello non può dire, ah ecco, questa chimica, siccome mi arriva dalla farmacia, mi è buona, e questa chimica che mi arriva dal primo binario della è cattiva. No, il cervello chimicamente è modificato, è sedato, poco gli importa se abbiamo lo scontrino della farmacia o meno, chimicamente è coinvolto, ha avuto delle mutazioni, punto, questa è la scienza. Poi tutto il resto è morale. Il fatto di dire io prendo il Minias per andare a dormire perché sono una brava massaia, piuttosto che io mi faccio un cilum come Bob Marley per andare a dormire, e questo è moralismo. Il nostro cervello non conosce Bob Marley, non conosce il cilum, non conosce la farmacia, non conosce la confezione del Minias, gli arriva la stessa sostanza. Tutto il resto è moralismo. Che io vada a letto con un bicchiere di cognac piuttosto che con 10 gocce di Valium, al nostro cervello non gliene frega, cioè non è questo le cose di cui si occupa il nostro cervello. Indubbiamente, tutto chiaro, quello che mi aveva colpito era il fatto, trovavo troppo duro il fatto di dire è la soluzione più facile, certo. Scarichiamo la persona che non ci va bene. A volte, specialmente io parlo a livello familiare, poi certo, certo, non c'è la preparazione invece per non scaricarla. Certo, ed è quello che noi in modo molto ambizioso cerchiamo di fare come centro di relazioni umane. Nel senso che, l'ho detto forse velocemente, che il nostro obiettivo è quello di dare tutti gli strumenti, le informazioni, le strategie, le conoscenze alle famiglie che vogliono evitare questo calvario a se stesse e alla persona, perché ogni volta che la persona viene presa come totorina e portata in un reparto psichiatrico chiuso, dove non può ricevere le telefonate solo al tempo prestabilito, può fare la passeggiata in cortile solo al tempo che è stato stabilito dagli infermieri, si trova in una situazione costretta dove la salute non viene, non le fanno neanche la pressione nel manicomio. Cioè il fatto che sul foglietto illustrativo c'è scritto che determinati farmaci portano a delle infezioni intestinali, questo è un effetto collaterale, come quando bombardiamo il mercato di Baghdad pieno di civili, è un effetto collaterale, la mentalità è la stessa, la cultura è la stessa. Quello che noi vogliamo fare, che è il nostro intento di fare, da se me lo alzi un pochino, no, come? Qua sotto. Ah, di sotto? Sì. Ecco. Dal 9 luglio del 2008 quello che noi abbiamo, le nostre intenzioni sono quelle di dare alle famiglie principalmente, perché le famiglie? Per quale ragione? C'erano gli anni 70, no? Tutte queste contestazioni alle famiglie, ma noi non partiamo da lì, partiamo dal fatto che le relazioni primarie sono le relazioni con i tuoi fratelli, le tue sorelle, con i tuoi genitori, sono quelle le relazioni fondamentali. E se c'è qualcuno che è disperato fino al punto di, come in questo caso della poesia, di tentare il suicidio, allora bisogna conoscere le ragioni di questa persona. Piuttosto che la cosa più facile è prenderla, chiuderla, farla assistere da un'infermiera, poi siamo anche abbastanza umani da rendergli la vita meno monotona. Non, in quella domanda, che ti importa perché l'ho fatto, c'è tutto questo, nel senso che le ragioni primarie allora possono anche essere scomparse, possono anche non avere più significato, possono anche non esserci più. Quella domanda apre un mondo di psicologia, è una biblioteca di Babilonia quella domanda lì, ognuno ci può trovare delle risposte, delle ipotesi, delle prospettive, ma che ti importa sapere? Poi non sempre abbiamo delle risposte, non sempre arrivare a dare delle risposte può essere un meccanismo così matematico, così lineare, per cui abbiamo bisogno più che di teorie astratte, come parla Giorgio Antonucci, abbiamo bisogno di un confronto con le persone, partendo dal presupposto che l'altra persona possiamo soltanto avvicinarci, non possiamo comprenderla come un oggetto e metterla sotto il nostro laboratorio, dentro il nostro laboratorio, per le ragioni che dicevo prima. E allora dovremmo riconsiderare delle categorie che sono più vicine alla filosofia che alla medicina. L'inganno, l'ambiguità nelle relazioni tra madre e figlia, tra padre e figlio, la competizione. Cosa c'entra tutto questo con la pillola? In effetti chiunque, qualsiasi psichiatra, dovrà dire che lo psicofarmaco non cura, non guarisce se è da E allora, vogliamo un parente o un familiare sedato in casa o in clinica? Oppure vorremmo, vogliamo che, per quanto sia conflittuale, complicato, continuare a confrontarci con questa persona perché potremmo trovare un accordo. Trovare un accordo. Infatti Dante Volpi si dice, io non volevo. Sì. Quando il fatto è avvenuto, dicono sempre, io non volevo, non volevo. Sì. Inserisce bene la relazione umana per... Sì. Sì, in effetti molte persone che arrivano poi da noi è perché hanno visto trattare il loro parente in una condizione disumana e ha spaventato tantissimo anche loro e non vogliono più trovarsi complici di questo crimine, per cui cercano noi come ultima spiaggia rispetto a quello che la psichiatria gli propone, quello che può essere la soluzione psichiatrica, perché cioè vedere tutta questa violenza sui propri familiari e sentirsi poi complici, perché sono stati chiamati da loro, con tutto quello che ne subentra, nel senso che se era già una relazione conflittuale, poi di fronte, cioè dopo un trattamento di questo tipo, di cui tu sei complice perché la telefonata l'hai fatta, peggiore, quindi significa più psicofarmaci, magari anche a tutta la famiglia, perché gli incubi notturni devono essere sedati, perché questi ritorni di coscienza, cioè voglio dire, non sono gli psichiatri cattivi, gli psichiatri fanno esattamente quello che la società gli chiede. Quindi dovremmo essere noi a trovare delle soluzioni che facciano a meno di queste violenze. I psichiatri fanno quello che la società chiede, ma i psichiatri sono dei professionisti, hanno una preparazione in materia, no. Quindi dovrebbero fare anche quello che serve all'ammalato. Non no, quello che serve all'ammalato è quello che serve alla società. Cioè la società chiede di mettere da parte questa persona, che non deve dare fastidio. E tutto quello che loro fanno è quello di mettere da parte questa persona che non deve dare fastidio. Cioè entrare, quello che le ho appena detto, entrare a casa Basaglia le serve proprio per togliere davanti questo lucido e questa vernice su questa pseudoscienza, cioè vedere le persone legate al letto con le scarpe, con gli occhiali, perché nessuno si è preoccupato di prendere gli occhiali e di metterli sul comodino, nessuno si è preoccupato di slacciare le scarpe, perché la cosa fondamentale è prenderlo e legarlo. Non è mica una persona, è un salame. Noi avremo un altro atteggiamento con il nostro parente, se non altro gli slacciamo le scarpe. Prego. Esistono però anche delle strutture, penso a una città come Faenza, che affiancano i centri di salute mentale e lavorano in collaborazione con i centri di salute mentale, e sono strutture residenziali diurne dove in primo luogo esiste la persona, cioè è una persona che ha un problema che lì viene definito malattia, in altri casi viene definito conflitto, però la persona è... Allora, le parole sono fondamentali, nel senso che se io considero questo tavolo, se io lo considero come un tavolo, ci farò determinate cose. se lo considero come un soppalco, ne farò delle altre. Giusto? È troppo difficile, non credo. Se io parlo di malati, li tratterò in un modo. Malati di mente, poi tra l'altro. Cioè, voglio dire, anche un infatuato arrivato in ospedale deve pregare di essere trattato il meglio possibile. Con un malato di mente abbiamo un vuoto a perdere e la bottiglia di latte è finita. Ok. Allora dire... anche dalla sensibilità delle persone. Cioè, no, io non parlo della sensibilità delle persone perché non posso parlare di tutte le persone del mondo. Io posso parlare di una dottrina. Io sto parlando della psichiatria. Non posso parlare di Pinco Pallino. Chi l'ha mai visto? E non mi interessa neanche fare un processo a determinato operatore piuttosto che a determinato psichiatra, educatore, quello che è. Io spero sempre che ci siano delle persone che, indipendentemente da quello che hanno studiato e letto nella loro vita, si facciano un'idea propria delle questioni. Ma è una mia speranza, sempre meno accolta, devo anche dire. Però se lei mi dice, indipendentemente dalle parole, se li chiamiamo malati o se li chiamiamo conflitti, no, no, no, la devo fermare. No, io penso non si può. La realtà che ho visto dove la persona veniva prima di tutto, cioè non c'era il malato, c'era una persona con una sua individualità. Guardi, io vengo da Bologna, queste cose di Faenza ne ho sentite a bizzeffa, tra l'altro Edelweiss Cotti viene da Faenza ed è anche scappato da Faenza. Le posso assicurare che non esiste un paese nel mondo dove la gente è felice e le posso assicurare che non esiste una clinica psichiatrica dove le persone sono contente e sono trattate da persone. E questo perché le parole sono fatti, per cui se una clinica psichiatrica significa che l'altra persona, cioè la psichiatrizzata, non è più a rango di persona, è un malato di mente. Il malato di mente nella Costituzione italiana è messo nella categoria degli infermi. Questa nella Costituzione italiana, grazie al potere della psichiatria. Nella disciplina medica, il malato di mente è una persona incapace in toto di intendere di volere, però c'è una biologia. Se una persona è incapace, biologicamente è morta. E allora dobbiamo trovare un accordo. Ha ragione la psichiatria o ha ragione la biologia? La biologia è scienza che si basa sui fatti. La psichiatria è un giudizio. Io posso dire che lei è un incapace. Io come psichiatra ho questo potere. Biologicamente non è vero, perché lei sarebbe già morta, biologicamente. Dire di una persona che è incapace di intendere di volere, cioè è come se la norma prevede che io sappia scrivere, parlare, far di conto, scrivere poesie, suonare clavicembalo, mangiare il gelato, fare tutto, conoscere gli astri. Allora posso dire io sono capace, peccato che non è umano. Non possiamo prendere le categorie e disfarle così a piacimento degli psichiatri. Allora se non posso essere capace di tutto, non posso essere incapace in tutto. Per la psichiatria questa logica scompare. La psichiatria è illogica, oltre ad essere una truffa scientifica, perché tratta la mente come se fosse un organo, ma il trucco è proprio in quel come se. Non è un organo e non ci possono essere a problemi differenti, si trovano soluzioni differenti. Se il carpentiere mi tratta il problema che la moca del caffè non fa più uscire il caffè, non lo può trattare con i suoi strumenti da carpentiere. La psichiatria non può andare bene nella camera da letto, nella scuola, in fabbrica, nel condominio. Ci sono ordini di problemi differenti e la psichiatria li tratta tutti allo stesso modo. In questo momento c'è di moda il Risperdal. Il Risperdal viene dato a tutti. Dal bambino, che è vivace in classe, a quello che ha paura della morte, per cui viene etichettato depresso, a quello che non è soddisfatto della sua vita e che viene etichettato bipolare, a quello che nella sua vita non ci crede più ed è un clown e se ne prende giro e viene considerato schizofrenico. E allora dovremmo fare piazza pulita, ripeto, di tutte queste categorie pseudoscientifiche che non fanno altro che portare più ambiguità, più difficoltà nella nostra vita, invece di renderla semplice, le paure giustificate dei nostri tempi vengono chiamate fobie, quindi è già una situazione in cui io ho paura. D'altronde mi tolgono anche la responsabilità, è una questione medica. Tu non hai responsabilità di questo, non hai soluzioni per questo. È una fobia. Mettiti nelle mani di quell'altro. Ed è fondamentale il linguaggio, proprio per la possibilità di poter fare, di riprenderci il nostro potere di poter fare. Per cui se io sono triste con mio marito non può dirmi sei paranoica, non mi sta rispondendo, mi sta dando una medicina. Io la notte dormo, con lui non mi lamento più, non ho più tristezze, non ho più gioie, non ho più vita e lui non ha più moglie. Poverina è malata. Ripeto, ci sono delle situazioni in cui le persone volontariamente vanno da questi signori, da questi specialisti, come possono andare da Vanna Marchi, piuttosto che dal mago di Orazio, piuttosto dal San Pio, Padre Pio, quello che è, e su questo a noi non è un campo in cui noi non ci mettiamo becco, non ci interessa. A noi interessa invece dare una risposta a tutte quelle persone che hanno passato degli anni a credere nell'ultima molecola, nell'ultimo ritrovato, nell'ultima struttura più bella e più moderna, e che sono stati frustrati e falliti in questa loro attesa. Noi ci rivolgiamo a loro. Noi siamo a disposizione, abbiamo aperto un sito, per un centro, organizziamo delle conferenze, dei confronti, dei dibattiti, delle tavole rotonde, dei workshop, dei seminari, per dare questo segnale, che si può fare diverso.